Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Cosa c'entrano i Dire Straits con la montagna? Lo saprete fra poco. Benvenuti a Möbius, adesso i titoli e poi cominciamo da lì. In vetta al mondo, la storia di Daniele Nardi, un ragazzo di pianura che ha conquistato le vette più alte del mondo. In Treatment è la serie televisiva che ha portato la psicoterapia sul piccolo schermo. Sta riscuotendo un successo straordinario anche in Italia, ma nella fiction, i fondamenti di questa delicata pratica terapeutica vengono rispettati? A Möbius, l'astronauta Luca Parmitano, in partenza per la missione Volare, ci racconta i preparativi e le aspettative per questo viaggio nello spazio lungo 6 mesi. La cultura si mangia. Il nuovo libro di Bruno Arpaia e Pietro Greco. I due divulgatori di scienza si confrontano sulla provocazione secondo cui la nostra classe dirigente considera la cultura come un bene di lusso. Non si mangia e quindi non serve a nulla. Telegraph Road, i Dire Straits. Ciao Chiara. Ciao Federico. Che bello iniziare così intanto. Sì. Ci porta subito in vetta, mi viene da dire, perché questa canzone ha ispirato un grandissimo alpinista italiano e adesso ci facciamo spiegare anche in che modo l'ha ispirato, perché qui con noi Daniele Nardi. E intanto buonasera Daniele. Buonasera a voi. Buonasera. Hai appena scritto un libro con Dario Ricci, che è un nostro collega della radio, è il conduttore di A Bordo Campo, che va in onda la domenica alle 14.30. Ciao Dario. Ciao Federico, ciao Chiara. Ciao Dario. Avete scritto In vetta al mondo. Allora, direi di partire forse con Daniele su Telegraph Road. Ah sì, questa è una meravigliosa canzone che però ha ispirato l'apertura di una via nuova in Pakistan, in una valle che per noi è molto conosciuta perché ci sono cime inviolate di una bellezza straordinaria, composte da granito rosso ma anche di salite fatte di misto, cioè l'insieme di ghiaccio e roccia insieme. E quel giorno ascoltavamo insomma i Dire Straits con questo amico Lorenzo, e a un certo punto abbiamo individuato con il binocolo una linea sottile che saliva fino ai 6.400 metri di una vetta inviolata, che noi all'inizio avevamo chiamato Peak of Freedom. Solo più tardi poi abbiamo scoperto che in realtà una salita ce l'aveva già precedente. E quindi salendo così, con uno stile molto leggero, lo stile alpino, su questa linea, arrivando in vetta, ci è venuto in mente proprio Telegraph Road, e quindi il nome che abbiamo dato alla salita è proprio questo, proprio il titolo della canzone di Dire Straits. Se tu fai la fatica, diciamo, sulle ascensioni, le discese, eccetera, Dario invece ha fatto la fatica un pochino più statica, no? Di raccontarle in maniera, devo dire, posso dirlo anche se sei un collega, in maniera molto, molto efficace. Bene, certo. Sì. Sono rimasto al campo base, ragazzi, ho delegato Daniele a provare a salire anche a nome un po' di tutti il Nanga Parbat in inverno, e soprattutto a raccontare le sue avventure, perché la montagna è un grande viaggio dentro di noi, alla scoperta anche della natura e anche alla scoperta dei nostri limiti scientifici, anche perché no. Facciamo sentire agli ascoltatori un pezzettino delle vostre fatiche, che cosa rappresenta la montagna per Daniele. La montagna, la vetta, il ghiaccio, per me sono la libertà. Su quelle rocce, con lo sguardo fisso all'insù verso quel miscuglio di bianco e azzurro, io vedo la vera libertà e mi sento realmente libero. È una sensazione primigenia e originaria, se vuoi anche ingenua, ma che davvero faccio fatica a ritrovare qua giù. Il mio desiderio della vetta è una fuga, una ricerca perenne, una smania di quell'infinito senso di libertà. Per me libertà libertà significa potermi esprimere su queste grandi montagne e avere la possibilità, diciamo, di proprio disegnare, quasi come se fossi un pittore, delle linee il più dritte possibile su pareti mai scalate. E Dario, quando ha interpretato, diciamo, queste mie parole, questo mio desiderio, è stato veramente molto preciso, ma soprattutto utilizzai proprio il termine libero, no? Perché abbiamo lasciato in questi incontri tirar fuori le emozioni che si incontrano andando su per le montagne. Ma lui, scusa, dice una parola molto precisa e mi ha fatto molto ridere, perché così come io utilizzo la piccozza per scalare la montagna, poi lui ha usato la penna, la penna. Per battere la traccia sul, ma sul, scusa, per il libro. Scusa Daniele, ma voi disegnate una linea di ascesa lì dal basso, ma poi può succedere che a un certo momento scoprite che bisogna tornare indietro perché è impossibile? Questa è la grande sfida. Quando noi studiamo le linee dal basso, non abbiamo la certezza che possiamo arrivare fin su attraverso quella linea. Le difficoltà possono essere molteplici. Sia la fatica fisica, potrebbe essere una parete impossibile da scalare, oppure semplicemente perché da giù, non conoscendo bene la parete, portiamo le attrezzature sbagliate. E lì è proprio la sfida dello stile alpino in velocità e in leggerezza. Cioè la capacità di mettere a nudo le capacità dell'uomo e provare a salire con leggerezza e forza lungo queste pareti. Quando la linea viene completata su un fin lavetta, diventa una sorta di capolavoro. Qualche volta però bisogna avere il coraggio di fermarsi e tornare giù verso valle, perché potrebbe diventare molto pericoloso. Non l'abbiamo detto, la tua missione, diciamo l'ultima, quella importantissima, è stata adesso, recente, a febbraio. Hai conquistato una vetta molto importante, adesso ci facciamo raccontare, del Nanga Parbat in inverno. È stato veramente duro. Sì, diciamo che in realtà io e l'Elisabeth Revol, che è la mia compagna di cordata dalla Francia, non siamo arrivati in vetta al Nanga Parbat in primo invernale, però abbiamo provato a superare quella che è la frontiera dell'alpinismo himalayano invernale che la storia ha, di cui la storia ha parlato fino ad oggi. Mi spiego meglio: se avessi salito il Nanga Parbat in inverno oltre gli 8000 metri, sarei stato il primo a essere su quella cima proprio nel periodo più brutto, difficile. Quello più brutto, ecco, quello in realtà più il limite umano, diciamo così, era questo sperone Mammeri, mi sembra che si chiami. Perfetto, esattamente. Cioè, fin da quando Mammeri, alla fine degli anni dell'Ottocento, scoprì questa linea, nessuno aveva avuto mai il coraggio di risalirla. Noi in pieno inverno, con uno stile leggero, quindi mettendo insieme tre cose: tentativo di prima invernale, una via nuova, cioè quella dello sperone, più con uno stile molto leggero, abbiamo cercato di fare queste tre cose insieme su quello sperone. Siamo arrivati intorno ai 6500 metri quando abbiamo dovuto rinunciare, però è stato come mettere un piede quasi al di là di quella linea che definisce la frontiera mai provata nell'alpinismo invernale. Beh, entusiasmante. Senti Daniele, però cos'è lo stile leggero? Tu l'hai già detto due o tre volte. Sì, è un concetto un po' particolare, perché ultimamente ci sono tantissime polemiche che parlano di spedizioni che vanno su con l'ossigeno, con i portatori Sherpa. Vedesi l'ultima cosa che è accaduta, diciamo, a Julie Steck e a Simone Moro adesso all'Everest, no? Bruttina. Questa follia degli Sherpa, sì, piuttosto bruttina. Quando si utilizza lo stile alpino, è quello stile che va lontano da queste strutture, va lontano dalle corde, dalle scale già prefissate sulla parete. Cioè, in pratica, lo stile alpino è come dire: mi metto la tenda, il sacco a pelo, ciò che mi serve sulle spalle e porto in avanti questa attrezzatura man mano che scalo. Quindi non ho una sorta di via di fuga e non ho nessun tipo di agevolazione, e sicuramente è senza l'ausilio supplementare di ossigeno. In un certo senso lo stile leggero è quello stile più puro, quello più bello, quello più avventuroso, quello più straordinario, che tira fuori veramente la forza e la competenza degli alpinisti in campo. Sì, lì anche un grammo fa la differenza, giusto? Qui le tecnologie sono importantissime, sia dal punto di vista dei materiali, ma anche, insomma, sappiamo, l'abbiamo sentito prima, tu ti porti dietro l'MP3, il computer, per comunicare, per far sapere attraverso anche il tuo blog che cosa stai facendo. È importantissima la tecnologia, almeno dal mio punto di vista, che essendo alpinista professionista voglio e devo comunicare, ma questa è una cosa che faccio particolarmente al campo base. L'MP3 con i Dire Straits e tante altre colonne sonore invece le porto anche lungo la scalata per concedermi quei minuti di tranquillità. Ecco, la tecnologia, dite bene, è fondamentale. Pensate che purtroppo o per fortuna, quando si fanno queste scalate in stile alpino, bisogna fare delle scelte forti. Noi su a 6500 metri non abbiamo dormito con quei saccappelli che arrivano a temperature, a sostenere anche temperature di meno 30. Abbiamo dovuto utilizzare dei saccappelli più leggeri, meno termici, perché comunque quello da meno 30 pesa dei chili e quei chili non possiamo portarli con noi. Quindi abbiamo accettato un po' più di sofferenza, però che ci ha permesso di essere più veloci perché pesavamo di meno, il nostro zaino pesava di meno. Ecco, un insieme tra tecnologia avanzata che oggi ci può permettere di fare alcune cose in più rispetto al passato e le nostre abilità, anche la tecnica di allenamento, ci permettono di tentare questa frontiera. Che vi dico, non è certo che con la tecnologia odierna si possa realizzare, perché è veramente al di là di quella frontiera. Il mio obiettivo, il mio scopo proprio da oggi, allenarmi e prepararmi per ritentare questa sfida che ho, diciamo, permettetemi il termine, un po' aggranfato, ma che non ho portato a termine fino in fondo. Bene, io spero che insomma gli ascoltatori si siano incuriositi, perché all'interno del libro ci sono anche un sacco di aneddoti divertenti, una partita di calcio giocata a 3000 metri. Comunque, ripetiamo il titolo: In vetta al mondo, di Daniele Nardi e Dario Ricci, che salutiamo, Edizioni Infinito. E voglio ricordare, lo so che ci tieni, che sei anche ambasciatore dei diritti umani nel mondo e che durante le tue spedizioni porti sempre le bandiere per testimoniare appunto questo importante impegno. Grazie. Grazie a voi. Grazie Daniele, ciao Dario, a presto. Grazie a voi per essere venuti con noi in vetta al mondo. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sta avendo un grande successo, è trasmessa da Sky, ha avuto un grande successo e ha un grande successo in molti altri paesi. Sto parlando di In Treatment. È questa strana, certo, fiction, perché praticamente è una serie continua, numerosissima, di sedute psicanalitiche, con in Italia come psicanalista Castellitto Grande, attore che interpreta molto bene questo personaggio. Per parlare di questa serie ho qui con me questa sera Vittorio Lingiardi. Buonasera Lingiardi. Buonasera. Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica La Sapienza di Roma, sei anche ordinario. Ti do del tu perché ormai vedo che stai facendo un grosso lavoro sui giornali, su riviste, proprio di divulgazione anche di grandi temi che riguardano le relazioni fra psicanalisi e tante cose che avvengono nella vita e poi temi anche di fondo sulla psicanalisi stessa. Questo In Treatment, intanto una cosa che tu mi hai detto, che questo proprio io non sapevo, è che tu da qualche tempo nelle versioni non italiane, perché quella italiana è appena partita, la stai addirittura usando in certi momenti di lezione. Sì, In Treatment è una serie televisiva che nasce in Israele, sì. È stata poi ripresa in Nord America in varie edizioni, sempre con Gabriel Byrne come bravissimo psicoterapeuta, e poi è arrivata all'edizione italiana con Castellitto. Sì. Io mi sono accorto, devo dire, su segnalazione dei miei studenti, di queste puntate che costituiscono appunto l'ossatura prima israeliana e poi nordamericana di In Treatment, e per curiosità ne avevo sentite alcune ed ero rimasto colpito dalla relativa precisione e bontà del testo, proprio della narrazione della relazione, sì, clinica. Sceneggiatura è notevole. Della sceneggiatura. E fu invito degli studenti a discutere alcuni punti, la loro verosimiglianza. Una volta alla Salpêtrière i professori portavano i pazienti in carne ed ossa, facevano sì. Vedere cos'era l'arco isterico. Questa cosa oggi non la si può fare. Lo studente di psicologia, soprattutto ai primi anni, ha molta curiosità di capire che cosa avviene in un setting di psicoterapia. E tra le mille rappresentazioni nel cinema che abbiamo avuto, per esempio rimanendo in Italia, mi limito a ricordare per esempio La stanza del figlio di Nanni Moretti, questo In Treatment, che pur poi li vedremo magari insieme, ha sicuramente limiti, lacune e imprecisioni, però aveva un testo secondo me piuttosto fedele ad alcune interazioni tra il terapeuta e il paziente, anche se naturalmente molto fictionalized, però mi sembravano delle buone chiavi d'ingresso per far capire alcune dinamiche da cui partire. E adesso infatti io vorrei entrare con te dentro i meccanismi. Allora, intanto queste sono solo sedute, quindi c'è una concentrazione di attività psicoterapeutica e psicanalitica. Lui è uno strano personaggio, in certi momenti sembra che segua le caratteristiche performance dello psicanalista, in altre più psicoterapeuta. Però entriamo un attimo dentro. Gli attori sono bravissimi, c'è una regia molto precisa, insomma il format è costruito molto bene. Però la prima cosa che ti chiedo è questa. Per ovvie ragioni di fiction, quello che avviene è che in una puntata, ogni volta che lui incontra un suo paziente, anche per 10 minuti, 15 minuti, c'è una concentrazione di cose che si dicono che normalmente avviene in 20 sedute. Cosa pensate voi di questo, voi psicanalisti? Ma pensiamo naturalmente che queste non sono delle videoregistrazioni, come peraltro si usa anche nella didattica, nella ricerca in psicoterapia, di sedute vere, quindi con i loro tempi, con i loro, diciamo, anche con un andamento del dialogo che a volte è sconclusionato, con dei lunghi silenzi. No, è una sceneggiatura, quindi un condensato di tematiche che devono collassare il tempo e lo spazio e fare avvenire in mezz'ora, tra l'altro appunto le sedute di in-treatment durano 30 minuti, mentre nella realtà una seduta di psicoterapia dura 45-50 minuti, quindi condensano in quei 30 minuti uno svolgimento di elementi, anche di contenuti, di pensieri che non rendono sovrapponibile alla realtà, semplicemente evocano delle tematiche, dei climi, degli stati mentali e possono essere degli spunti interessanti. Però io qui ti chiedo, Vittorio, siccome questa non è una fiction western, questa è una fiction che interviene su un insieme di problemi di vita, di sensibilità, di emotività molto forti, allora c'è un problema nel tipo di immagine che viene data a tutti coloro che potrebbero andare in psicanalisi oppure ci sono già dentro? C'è qualcosa che c'è un'immagine che non è corretta, può essere problematica, oppure comunque in fatto che c'è una certa positività che emerge da queste sedute è buono, è cosa buona? Guarda, la mia risposta è un po' a metà strada di questa osservazione, cioè se è una cosa buona o se è una cosa cattiva. Io credo che il versante di spettacolarizzazione della vita psichica, fare appunto della psicoterapia qualcosa come può essere invece, non so, un altro serial tipo CSI o qualcosa di questo simile, è negativo, perché evidentemente strappa al silenzio e alla dimensione un po' inconscia una serie di elementi che fa diventare più diciamo trendy, quindi questo effettivamente è un po' negativo. Però siccome questo sia la versione italiana che la versione americana e prima israeliana di questo serial ha invece una sua onestà narrativa, mostra abbastanza le cose come in alcuni frangenti, ripeto, più della psicoterapia che non della tradizionale psicoanalisi, ma bastano due elementi. Intanto non c'è il lettino. Mi sembra che questa cosa giustamente la faceva rilevare anche Recalcati in un lavoro, in un articolo su Repubblica. Quindi non c'è il lettino. C'è il setting, è un setting, la stanza della terapia è il salotto di casa. In America a volte succede, in Italia direi mai. Proibito, ciascuno mai. Ha il suo studio, la sua stanza che può arredare in modi diversi, ma non è così esposta alla dimensione domestica casalinga del terapeuta. Per motivi di fiction hanno voluto inserire anche tutta una tematica di transfert erotico, di agito, eccetera, che effettivamente può arrecare un po' di perplessità, perché per altri aspetti invece questo terapeuta si vede che lavora bene, insomma, che ha una sua dedizione autentica al paziente, quindi ci sono delle concessioni che francamente diciamo un sacrosanto, anche un po' purista della dimensione terapeutica, deve segnalare e prendere le distanze. Però è anche vero che in un momento culturale in cui la stragrande maggioranza delle persone che, non so, si sente triste, si sente abbattuta, si sente frustrata, sì. Pensa immediatamente, devo trovare qualcuno che mi dia la pillola magica in 448, starò bene. Ricordo, tra parentesi, ma perché ne ho recentemente parlato, il film di Soderbergh che uscirà, credo, tra poco, in maggio, anche in Italia, è un film che racconta, ovviamente anche lì, in thriller, in fiction, la preoccupante dimensione del fenomeno degli psicofarmaci. Ecco, allora, in una situazione in cui il trend culturale è sto male, psicofarmaci, risolvo tutto senza pensieri, almeno questo in treatment messaggio avvicina il soggetto a pensare che sulla sofferenza c'è la possibilità di un dialogo e c'è la possibilità di una relazione. Sì, perché quello che mi sembra come dato positivo è che esce una grande umanità che si racconta, esce un grande sforzo, dolore, però anche poi dimensione risolutiva nel raccontarsi, nel riuscire a sciogliere questi nodi. Questo viene fuori molto bene. Poi dopo, certo, ecco, l'altra sera improvvisamente una sua giovane paziente va in bagno perché chiede di poter andare in bagno e lì trova un armadietto pieno di psicofarmaci e ne ingoia 10. Ecco, forse queste sono quelle cose che magari si potevano evitare. Sì. Diciamo, queste sono le concessioni ai colpi di scena richiesti dalla narrazione, ma io, insomma, credo che nessun terapeuta minimamente avveduto tiene nel bagno dei pazienti farmaci, o a maggior ragione, insomma, se vede pazienti gravi che hanno anche minacce suicidari, anche se lì, insomma, sì, lì è proprio veramente una concessione al colpo di scena, ce ne sono parecchie. Poi ripeto, come giustamente facevi osservare anche tu, lo schema narrativo di In Treatment è una seduta al giorno di sei diversi pazienti e praticamente sono terapie di una volta alla settimana che segui per 7, 8, 10 sedute. Capisci che quello avviene magari nell'arco di 2-3 anni e magari anche con un ritmo di sedute di 1 o 2 volte. Sì. Credo sia importante dire, non è un documentario sulla psicoanalisi, è una fiction sulla possibilità di parlare in una dimensione psicoterapeutica della sofferenza mentale con una forte impronta, diciamo così, di sostegno e di relazione. Non c'è molto spazio all'interpretazione, ripeto, non c'è il silenzio, insomma, sono... Sì. Però è come una miniatura che ha una sua onesta efficacia e che comunque aiuta lo spettatore a pensare che ci sono delle possibilità di approfondimento nel dialogo e di relazione. Nella fiction i suoi pazienti si incontrano entrando, uscendo dalla casa e dicono: ma questo non dovrebbe accadere. Anche questo è vero o no? Diciamo che anche qui un terapeuta avveduto lascia sempre uno spazio di 5-10 minuti, un quarto d'ora tra una seduta e l'altra per evitare questi incontri, queste commistioni. Poi è anche vero che il bar sotto lo studio, per chi ha la sala d'aspetto, il paziente che arriva in anticipo, cioè esiste anche una letteratura sul significato anche psicologico, emotivo del sapere che tu paziente sei paziente in mezzo ad altri pazienti che puoi incontrare, che non puoi incontrare, che dire, è come i fratelli con un genitore, c'è la rivalità, c'è la solidarietà, c'è l'ignorarsi, c'è l'incuriosirsi. Però se ci sono anche un po', insomma, dà un senso di normalità. Vittorio Lingiardi, ti ringrazio, buon lavoro e buona ricerca. Grazie a te, a voi, buon lavoro. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, Luca Parmitano, il nostro astronauta, sta per partire per lo spazio. Allora ha chiamato Chiara Albicocco per salutarla, per scambiarsi un po' di cose, di racconti. Poi dopo magari si rivedranno alla fine, al ritorno dal viaggio. Sentite che cosa si sono detti. Ci siamo quasi, il prossimo 28 maggio parte con la missione volare il nostro astronauta italiano Luca Parmitano. Intanto benvenuto a Mebius. Grazie dell'invito. Allora Luca, come ci si sente? Manca davvero, davvero pochissimo. Sì, manca poco. Siamo veramente in dirittura di arrivo. Hai paura? La domanda che ti fanno tutti. È una domanda che mi fanno tutti, perché io la capisco, però in realtà la paura è qualcosa a cui non penso. Semplicemente non ci penso. È un è qualcosa a cui siamo abituati, chi fa questo lavoro comunque viene da un mondo operativo come quello dell'aeronautica militare, del volo. Noi siamo abituati a vivere con il rischio, siamo coscienti del rischio, sappiamo che si fa di tutto per minimizzarlo, e poi la paura è uno strumento che a volte può essere anche utile. Allora ci diamo del tu, lo svegliamo, perché nel fuori onda abbiamo deciso che siamo quasi coetanei, quindi poi tu sei una persona poco formale, quindi ci diamo del tu, abbiamo deciso così. Poi tu sei molto legato anche alle persone che ti seguono, al tuo pubblico, agli amanti dello spazio, perché hai un blog, sei molto attivo sui social, su Twitter. Infatti nelle scorse settimane io un po' ti ho seguito e ho letto che sei stato sotto posto a dei test, a degli esami piuttosto impegnativi in Russia, dove ti trovi anche adesso nella città delle stelle, e alcuni esami hanno dei nomi veramente evocativi: attracco manuale alla stazione spaziale oppure rientro della navetta spaziale. Insomma, ti sei sentito un po' come Luke Skywalker di Guerre Stellari? Sarebbe un po' il sogno quello di avere la mia astronave per volare nello spazio, magari il sogno di tanti sin da quando erano bambini, sicuramente il mio. Beh, diciamo, tu ci sei quasi arrivato a realizzarlo. Guarda, diciamo che volare su una navetta spaziale o comunque pilotarla anche in un simulatore è la cosa più vicina a essere un pilota di astronave che si possa fare al momento, quindi io sono contentissimo, insomma, sia degli esami, sia dei risultati, sia di poterlo fare. Vabbè, infatti possiamo dire che gli esami sono andati benissimo. Raccontaci, cioè, tu ti sei seduto al comando e praticamente dovevi simulare il ritorno sulla Terra, o comunque l'attracco alla stazione spaziale una volta che arrivate. Sì, questi due sono i due esami individuali sicuramente più difficili per gli astronauti o per chi comunque è o comandante della navetta o copilota, come nel mio caso. Sono due esami individuali molto molto difficili, l'addestramento è lungo e comunque la navetta, pilotare una navetta, fare un aggancio in modo manuale alla stazione è sicuramente una sfida ogni volta, soprattutto poi sotto esami c'è ancora più pressione, come puoi immaginare. Quindi essere riuscito a farlo bene, essere riusciti a fare un attracco preciso con dei limiti molto molto ristretti è una bella soddisfazione. Quello invece del rientro, l'esame di rientro manuale dall'orbita è forse ancora un po' più emozionante perché si fa con una centrifuga, in una centrifuga sotto accelerazione, quindi c'è un effetto molto molto realistico di essere seduti dentro questa navetta con poi l'accelerazione che ti schiaccia nel sedile mentre tu in maniera manuale comandi la navetta per seguire un profilo di rientro che sia sicuro, ma anche lì con dei parametri molto ristretti per atterrare in un punto preciso della Terra. Ecco, qui mi sembra che sei stato promosso a pieni voti, quindi sei rientrato senza problemi. Sì, questa volta qui nel simulatore sono rientrato senza problemi, è andata bene. Ecco, tu nel 2009, se non sbaglio, sei stato scelto, mi sembra che sia l'anno, il 2009, giusto? Quando sei stato scelto dall'ESA come appunto pilota, come astronauta, insieme a Samantha Cristoforetti. Lì allora fece molto notizia il fatto che lei appunto fosse la prima italiana femmina. Oggi invece la notizia è che tu, insomma, prima di tutto sei il quarto italiano che entrerà nella Stazione Spaziale Internazionale, ma ancor più sarai il primo a concederti la passeggiata extraveicolare, la cosiddetta spacewalk. Insomma, come ti sei guadagnato questo privilegio? Io dico sempre che c'è un... è sempre tutto al 50%. Io dico che al 50% il mio lavoro, il mio impegno, anche perché comunque è un'attività che mi piace moltissimo, poi anche un pizzico di fortuna, che io lo dico, non guasta mai, dico sempre un 50% di fortuna, perché il caso ha voluto che durante la mia spedizione 36-37, o comunque l'incremento della missione volare, fosse necessario effettuare delle manutenzioni, comunque delle attività extraveicolari particolari che non potevano essere fatte in un altro momento, per cui insieme al collega Chris Cassidy, che è un veterano della spacewalk, secondo me uno dei migliori astronauti per quanto riguarda l'attività extraveicolare, grazie alla sua presenza da veterano e anche al fatto che il mio addestramento è andato molto bene, si è pensato che potessimo costituire un team valido per fare queste attività extraveicolare. Però, scusa la domanda un po' banale, una volta lì fuori che fate voi due? Saranno due attività di circa 6 ore e 30 l'una. sono piene di attività, puoi immaginare che in 6 ore di tempo se ne fanno di cose, quindi in maniera così molto, molto rapida. Nella prima attività extraveicolare dobbiamo configurare la stazione, perché in questo momento sono in una delle dei componenti del braccio robotico che è sulla stazione, il braccio robotico canadese, sono spiazzate temporaneamente dei pezzi che devono essere spostati, e questo bisogna farlo manualmente. Quindi io insieme a Chris sposteremo questi pezzi da una parte all'altra della stazione, dovremo riparare alcune cose che sono, bisogna fare la manutenzione, e poi porterò all'interno degli esperimenti che sono stati fuori per tanto tempo e verranno riportati a terra per essere analizzati. Nella seconda EVA invece quello che dovremo fare è preparare la stazione all'arrivo di un modulo russo, l'ultimo modulo russo che si chiama MLM, arriverà l'anno prossimo, e bisogna preparare la stazione per l'arrivo attraverso dei cavi che porteranno sia elettricità che tutta la parte dati, quindi computeristica, wifi e così via, a quest'ultimo modulo, e quindi dovremo installare questi cavi all'esterno della stazione. In questo caso la vostra missione che compiti ha? Che cosa vi portate dietro? Guarda, in un qualsiasi momento sulla stazione ci sono in corso oltre 150 esperimenti. Molti di questi esperimenti sono automatici, per cui l'equipaggio ha poca interazione, ma almeno 2/3 di questi in un modo o nell'altro noi siamo comunque in contatto con gli esperimenti, perché o li installiamo, comunque controlliamo i procedimenti, o li facciamo iniziare, li facciamo terminare, oppure siamo noi stessi i soggetti degli esperimenti. Io mi sono offerto volontario per tutti gli esperimenti di fisiologia, per cui se non sbaglio sono una ventina soltanto per me. Cioè sul tuo corpo? Sul mio corpo, sì, sul mio corpo, sulla mia persona, e poi i risultati li porteremo a terra noi stessi attraverso dei campioni che preleveremo del nostro sangue e così via, insomma. Ma in particolare un esperimento che inizia con me, al quale sono molto legato, ne parlo spesso perché per vari motivi. Uno, perché è un esperimento italiano, si chiama Green Air. Poi perché è un esperimento che parla di green economy, di ecologia e di economia allo stesso tempo, perché si tratta di studiare la combustione di combustibili biologici e minimizzare allo stesso tempo l'emissione di sostanze tossiche. Quindi diciamo che in questo momento è un argomento molto, molto importante di tecnologia e di evoluzione. E insieme a questi esperimenti ne faremo poi molti altri, di medicina, di tecnologia. Tutti i campi della scienza vengono toccati durante una spedizione come la mia. E qui a Mebius ne parliamo spesso, tante tecnologie che noi utilizziamo tutti i giorni, dalla cerniera al velcro, in realtà arrivano dallo spazio. Ma l'altra cosa che volevo chiederti è: quante volte avrete simulato la giornata della partenza, dici? Ah, beh, io direi almeno 3 volte su 4 in cui entro in un simulatore un simulatore Soyuz per addestramento, o con il mio comandante o con l'equipaggio al completo, simuliamo la partenza, quindi con la tuta spaziale al completo, seduti dentro la navetta per un bel po' di tempo. Insomma, il giorno vero e proprio del lancio si sta dentro prima della partenza un paio d'ore. Nel simulatore noi facciamo tutto in una 40 minuti, dopodiché simuliamo tutte le operazioni, simuliamo il lancio, l'ingresso in orbita e tutte le operazioni che da lì si svolgono fino all'attracco alla stazione, con tante emergenze che i nostri istruttori inducono. Non vi fanno mancare. Sì, ma come funziona? Sulle spine. Il prima, sono interessatissima, il prima, cioè a che ora si mette la sveglia, ci si alza presto, che colazione si fa, non so, raccontaci un po' questi dettagli. Ma ci si alza circa 8 ore prima del lancio, dell'orario previsto. Ci sono tutta una serie di cerimonie da fare, alcune tradizionali, altre che sono proprio previste, quindi ci si alza, la prima cosa chiaramente è la colazione. Oh, fino adesso, come ci volevano 2 giorni per arrivare sulla stazione, fino all'ultima navetta ci volevano 2 giorni, adesso si fa in 6 ore perché è un esperimento che stiamo facendo, quindi le procedure cambieranno un po', ma comunque si stava 2 giorni dentro questa navetta grande quanto due cabine telefoniche, quindi diciamo che molte funzioni corporali non sono comode da fare, no, in orbita, in uno spazio così limitato anche per la privacy. Certo, per cui la colazione immaginiamo. Era normalmente una colazione liquida. Sì. Dopodiché iniziano tutte queste procedure mediche per controllare che lo stato di salute sia perfetto, ci si ripulisce completamente per eliminare ogni traccia di contaminazione dal proprio corpo, dopodiché si fa ancora adesso a firmare sulla porta delle stanze in cui tutti i cosmonauti che hanno volato sulle Soyuz hanno passato la notte. Quindi in queste porte delle stanze in cui si è dormito si firma che si è passati da là, c'è la benedizione di uno dei preti ortodossi russi che sta lì apposta per farci questa benedizione, si fa l'ultimo saluto alle famiglie prima di partire per il cosmodromo. Dopodiché c'è questa partenza al cosmodromo, si arriva lì, c'è un piccolo pranzo, anche praticamente liquido per lo stesso motivo di prima. E dopodiché inizia la vestizione della tuta spaziale, quindi si indossa la tuta spaziale, si fa una verifica che sia perfettamente ermetica, che non ci siano delle perdite di aria dalla tuta, e l'ultimo passo, l'ultima cerimonia grossa è l'uscita, dove il pubblico aspetta fuori vicino agli autobus che ci portano al vettore. Lì si saluta insomma il pubblico che è presente lì, e dopodiché si arriva circa 2 ore e mezza prima, si arriva alla navetta. Dopodiché si entra nella navetta, si fanno le procedure di cui abbiamo parlato prima, che si controllano tutti i sistemi del veicolo, che tutto sia esattamente conforme al piano di volo, e poi si aspetta perché nel frattempo il team di terra controlla i sistemi ai quali gli astronauti non hanno accesso, ma che devono essere comunque controllati, mentre gli astronauti ascoltano della musica per rilassarsi. Ah, che musica ascolterete? Si sa già? Ma io credo che sia una prerogativa del comandante scegliere la musica. Ah, perché, ok, a scegliere il comandante. Perché non mi è stato chiesto, quindi io non ho dato nessuna indicazione. Niente, speriamo ti piaccia, io te lo auguro. Ma a me piace tutta la musica. Ah, vabbè, poi allora siamo a posto. Penso che seduto lì quel giorno con tutta l'adrenalina in corpo e i vari pensieri e tutto quello che passa per la testa. Forse la musica passerà in secondo piano. Penso proprio di sì. E da lì parti per 6 mesi. Mandaci dei contatti. So che tu, insomma, utilizzi tantissimo Facebook, Twitter, con tutto il tuo pubblico, con noi giornalisti che ti guardiamo sempre e ti leggiamo. Insomma, mandaci notizie, mandaci qualche foto. Io sicuramente manderò un messaggio, vari messaggi, il più possibile a tutti, al mondo, quindi in italiano, in inglese, spero di poter fare molta, molta comunicazione, perché è una parte importante del nostro lavoro, quella di far comprendere ai ragazzi e agli uomini che c'è qualcosa al di là della scuola, dell'università, che si può comunque lavorare in un mondo che in Italia è molto sviluppato, quello dell'astronautica, sia nelle costruzioni spaziali, ma comunque entrando anche nelle amministrazioni. C'è spazio per tutti nell'aerospazio, sembra un po' cacofonico, ma è proprio vero. Però è vero. C'è spazio per tutti. C'è posto per l'amministrazione, per gli ingegneri, per gli scienziati, per i medici, per gli sportivi. E in futuro ci sarà posto sempre per più persone, perché il futuro non è soltanto per i piloti o gli ingegneri o i dottori, ma sarà sempre di più per la gente comune che dovrà fare questo lavoro per andar fuori dal nostro mondo. Io ti lascio parlare, perché io credo che gli ascoltatori siano ancora più orgogliosi, perché mandiamo in orbita veramente una persona di valore, ma anche con proprio una bella testa, un bel cuore. Ti faccio l'ultima domanda da $1,000,000. Tu sei giovane e hai già grandi responsabilità, l'abbiamo sentito, e potresti essere uno, adesso la buttiamo lì, della generazione che ambirà a Marte. A che punto siamo, tu che sei ben informato, insomma sei nel campo? Allora, ci sono due risposte possibili. Una è quella che la tecnologia per andare su Marte non è così lontana da quello che abbiamo già. Cioè, ci sono delle cose che devono essere inventate, ci sono degli studi che devono essere ancora fatti, ma non siamo lontanissimi dalla capacità di andare su Marte e di fare esplorazione interplanetaria. È un grossissimo problema è quello politico, perché purtroppo la percezione spesso a livello di popolo, a livello di chi ci guarda, è che un'impresa spaziale costi chissà quanto. Questo è un problema legato anche a come si pubblicizzano le imprese spaziali. In realtà, se andiamo a guardare quanto spende un italiano medio per lo spazio, ma soprattutto per il volo umano spaziale, spende molto molto di meno di quello che spende per una sigaretta. Io credo che in media un europeo spende un euro l'anno per lo spazio, per tutto lo spazio, è una percentuale minima per il volo umano. Quindi in realtà è soltanto un problema di percezione. Luca, non so, cosa si dice ad un astronauta che sta per partire? Basta un comunissimo in bocca al lupo. Allora in bocca al lupo da tutti noi qui della radio, dai nostri ascoltatori, da noi di Mebius. Davvero ti seguiremo e poi ci sentiamo quando torni. Crepi il lupo, io vi ringrazio dell'attenzione e l'interesse per la mia missione. Saluto tutti quanti, tutti gli ascoltatori e a presto. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo per parlarvi di un libro, ma che però rimanda a una delle grandi questioni italiane, assolutamente italiane. Ho qui per parlarne Bruno Arpaia. Ciao Bruno. Ciao. Ci diamo del tu perché scrivi di scienza, però tu sei anche un raccontatore, un narratore di scienza, con libri che hanno la scienza al loro interno. Il libro l'hai scritto anche con Pietro Greco, altro giornalista di scienza sul campo da tanto tempo, quindi con una grossa esperienza a tutto tondo sulle questioni scientifiche. Avete scritto un libro che si intitola La cultura si mangia, edito da Guanda. Ho una sensazione strana che si riferisca questo titolo a un ministro. Guarda, ci hai preso, ma stranamente ci hai preso. No, non volevate, però vi è venuto poi dopo. È assolutamente spontaneo, non si poteva non partire dalla cultura non si mangia. Esatto. Una delle cose appunto più, come dire, roboanti, in quanto, diciamolo, sciocchezza che abbiamo prodotto in questi anni folli del paese, visto poi quello che stiamo vivendo anche di questi tempi, ma noi in queste cose non entriamo. Il libro è abbastanza breve, sono 160 pagine, 170 pagine, ed è un po' un manifesto, insomma, cioè il vostro piglio è di gente abbastanza arrabbiata che però mette insieme una quantità di dati notevoli per riuscire a dimostrare come su questa industria culturale, sulla ricerca culturale, su tutto quello che si potrebbe fare in Italia in questo campo, c'è davvero da sbizzarrirsi per fare le cose in modo diverso da come sono state fatte, con grandi vantaggi. È veramente tanta la roba contenuta in questo manifesto un po' arrabbiato. Io direi, se sei d'accordo, di concentrarci su tre cose emblematiche. Ce n'è una prima da cui vorrei partire, perché è stato qualcosa che ha attraversato moltissimo, appunto, per due anni fa particolarmente era esplosa, cioè in Italia abbiamo troppe università e la qualità quindi è bassa, dovremmo concentrarci in 30, 35, 40 centri di eccellenza. Cosa dite voi? Beh, diciamo che tutte queste posizioni, da quelle più rozze, diciamo, di Stefano Zecchi, che imputava la colpa ai genitori che volevano per forza far studiare i propri figli, farli diventare dottori, e uno era tentato di resuscitare il Sapesse Contessa di Pietrangeli, ma poi ci sono le posizioni di Alesina Giavazzi, di Chino e Terlizzese, per i quali tutti appunto sostenevano le cose che tu avevi anticipato. Ma questa scelta per noi non è assolutamente una scelta lungimirante, perché sottostima il valore strategico, non soltanto per la cultura, e già questo non sarebbe poco, ma per l'economia e dunque per la società, dell'università e della formazione, peraltro basandosi su dati assolutamente sbagliati, nel senso che noi abbiamo un rapporto docente-studente che credo sia di, adesso le cifre, credo sia di 18,5 1,18,5 sì, studenti per docente, 18,7 mentre la media OCSE è di 15 studenti e mezzo per docente, e addirittura arriviamo alla Francia dove ce ne sono 8,4, e negli Stati Uniti, che normalmente è il paese che viene elevato a mito dai neoliberisti, sono addirittura 14,5 per milione di abitanti. E soprattutto la questione che a noi preoccupa è la questione di prospettiva, perché noi abbiamo soltanto un 20% di laureati, con un trend che sta calando, perché perché sono recenti le notizie sul calo degli iscritti all'università. Adesso, nella società della conoscenza, in cui qualunque merce ingloba molta più conoscenza di quello che valga, diciamo, la parte di hardware in qualche modo, questo è, comporta un gap profondissimo che si accrescerà nel futuro, perché nei paesi dell'OCSE il 40% della popolazione giovanile ha almeno una laurea, si supera il 50% in paesi molto diversi come il Canada, il Giappone, la Russia, e addirittura si arriva al 63% in Corea del Sud. Noi siamo al 20%. Se facciamo un'elaborazione a 30 anni ci si renderà conto che nel resto degli altri paesi la maggior parte dei giovani avrà dietro 20-25 anni di studio alle spalle, noi non le avremo, ed è facile capire come i nostri ragazzi saranno costretti di nuovo ad andare in Corea del Sud, in Canada o in Russia a fare i camerieri, ed è quello che noi non vorremmo assolutamente. Il che in sintesi vuol dire che questo dibattito che c'è stato era un dibattito completamente privo di senso, perché a partire dai dati veniva sgomberato comunque il contendere alla radice, poi questo è il dato più interessante. Ti chiedo un'altra cosa che ho trovato al centro del vostro manifesto. Voi dite: noi abbiamo, e lo sappiamo, lo abbiamo detto tante volte qui in trasmissione, abbiamo delle competenze scientifiche molto forti che non riusciamo a utilizzare, non solo riferendosi al famoso fenomeno delle migrazioni dei cervelli. Voi dite che proprio c'è un meccanismo interno nel paese che non riesce a utilizzarle. Sì, è un meccanismo che, diciamo, è nato, si è innescato all'inizio degli anni 60, quando l'Italia, diversamente da tutti gli altri paesi con cui normalmente viene paragonata, ha scelto un modello di sviluppo che è stato definito un modello di sviluppo senza ricerca, quindi senza conoscenza, un modello di sviluppo che poteva contare sul fatto che fino a qualche tempo fa avevamo bassi costi del lavoro e potevamo ricorrere alla svalutazione della lira per tirare le importazioni. Era un modello in cui producevamo cose anche belle, perché il design italiano è... Sì, anche il manufatturiero faceva delle belle robe. Però appunto senza investimenti in ricerca che inglobati in queste merci. Quando queste due vie d'uscita, cioè il costo del lavoro basso e la svalutazione della lira, ci sono state chiuse, per noi, si è verificato il crollo. L'Italia ormai lo dicono tutti, però fino a poco tempo fa nessuno diceva, è un paese evidentemente in declino, proprio perché non riesce più a competere con gli altri paesi. E questo dipende ovviamente dal fatto, non è che i nostri industriali siano meno bravi o meno aperti all'investimento in ricerca degli altri, e sono condizioni strutturali per cui questo modello comporta investimenti minori evidentemente in ricerca. Infatti da questo punto di vista è proprio la comparazione con gli investimenti privati in ricerca negli altri paesi è veramente devastante per noi. Qui tu tocchi un punto molto importante, molto sottile, cioè attenzione che se ho sparse anche dei comportamenti intelligenti, delle competenze, ma non ho un sistema, io posso avere dei potenziali 50 Nobel all'anno e non ne prenderò nemmeno uno, nel senso che nessuno di questi riuscirà a produrre. Posso fare solo un esempio, noi da poco tempo abbiamo, cioè qualche anno, abbiamo incentivato per esempio l'installazione nelle case italiane dell'eolico e del fotovoltaico. Sì. Noi siamo all'avanguardia nella ricerca sull'eolico e nel fotovoltaico, però che cosa è successo? Che nessuno, qui dico lo Stato perché manchiamo di politica industriale assoluta, ha incentivato l'installazione, ma nessuno ha pensato a incentivare la produzione, per cui noi ci siamo trovati col paradosso che non solo non c'erano aziende italiane che producessero queste merci, ma le abbiamo dovute importare a detrimento della bilancia dei pagamenti. Abbiamo investito in tutti i sistemi di facilitazione, poi siamo andati a prendere i pannelli in Cina. Esattamente, questo in giapponese, come si chiamerebbe Harakiri o Seppuku. Ultima cosa brevissima, ti chiedo questo: voi vi fate questa domanda, ma come può essere che, essendo il paese che ha, tende ad avere due cellulari a testa quasi, cioè siamo il paese, almeno uno sul mercato prodotto da noi forse poteva esserci? Più o meno è quello che abbiamo detto prima. L'Italia manca di una politica industriale e soprattutto manca della, quello che noi sottolineiamo è che bisogna assolutamente cambiare specializzazione produttiva del paese, fare in modo che questo paese si orienti sempre di più verso produzioni high tech, dove sono necessari grandi investimenti in ricerca e sviluppo, e soprattutto che si crei attorno a questo, come dicevi tu prima, un sistema che è legato anche a, non soltanto alle cose scientifiche, ma anche alla cultura più vasta in genere, perché si deve creare quello che noi chiamiamo un habitat dell'innovazione che metta in condizione il pubblico e il privato, soprattutto il privato, di agire e quindi di potersi sviluppare in un ambiente idoneo che possa permettere, approfittando delle conoscenze sul territorio, di produrre almeno quel telefonino di cui parlavi tu. Bruno Arpaia, Pietro Greco, La cultura si mangia, edito da Guanda, si legge abbastanza rapidamente, che sono 170 pagine, va bene per arrabbiarsi, quindi però per vedere anche tante possibili soluzioni. Abbiamo cercato di fare un pamphlet, ma un pamphlet molto documentato. Sì, buono. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi. È stato bello stare con voi, ma il tempo è finito. Buona settimana a tutti e a tutte.